La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, un buon weekend a tutti, un buon weekend di cinema da Radio 24, la nostra ora di cinema settimanale si apre all'insegna, anzi sulla scorta delle nomination agli Oscar che sono state appunto comunicate nel corso di questa settimana e che trovano già in sala in questo weekend alcuni dei protagonisti che poi vedremo a fine febbraio. I film, tutti i film e le interviste, le voci dei protagonisti delle novità in sala è una settimana cinematograficamente piuttosto nobile, quella che si propone agli spettatori italiani. Noi cominciamo come sempre con l'assaggiare i contenuti della trasmissione nei nostri titoli di testa. ACAB, All Cops Are Bastards, una sigla per rivendicare un odio. Dal libro di Carlo Bonini, il film omonimo, viaggio dietro le quinte dei meriti e delle esagerazioni degli uomini che ogni giorno rischiano qualcosa di sé per la sicurezza di tutti. Alla Rosa Purpurea, l'intervista con Pierfrancesco Favino. È stata la signora di ferro della politica mondiale. Ora la vita di Margaret Thatcher diventa un film. The Iron Lady ha il volto di Meryl Streep, protagonista da Oscar. Regia di Phyllida Lloyd, reduce dal successo di Mamma Mia. Governare una squadra di baseball con le regole della matematica è ciò che fece Billy Bean, portando la scalcinata squadra di Oakland a un passo dalle World Series. Ora quella storia arriva sul grande schermo nel film Moneyball, l'arte di vincere, che vale una nomination all'Oscar all'emergente Jonah Hill. Una coppia nella Bosnia di oggi che, superate le ferite della guerra, ha riaperto quelle dell'identità culturale. Lei bella in carriera, lui convertito all'Islam militante. È il sentiero che porta verso la disgregazione. E allora, questi contenuti principali della trasmissione, cominciamo subito a tuffarci in atmosfera Oscar, anzi nomination, e ci colleghiamo con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, nomination che hanno fatto un po' la parte del leone in mezzo alla settimana, c'è stata la annunciata, diciamo così, messe di candidature per The Artist e anche quella per Ugo Cabré di Martin Scorsese, che arriverà sugli schermi italiani la prossima settimana. Ci sono state anche, come sempre, un po' di sorprese. Insomma, qual è secondo te il panel che esce da questa candidatura? Ma il panel con le 10 candidature di The Artist è quello, tra l'altro, da una parte di un Oscar che continua a cercare di essere indipendente, insomma, di fare scelte anche fuori dal mainstream. Diciamo che è una tendenza che è iniziata con Crash, che si è confermata con The Hurt Locker e vari altri film. E esce fuori forse un anno non felicissimo, va detto, anche se a mio parere Ugo Cabré è un piccolo capolavoro, e quindi insomma c'è la possibilità di vedere un film in bianco e nero, e questa è la grande cosa dirompente, poter cannibalizzare l'Oscar in qualche modo. È un po' la situazione di The Millionaire: arriva da oltreoceano il possibile ammazza Oscar, e questo secondo me è la parte più interessante. Assolutamente, io non ho amato particolarmente The Artist, come i nostri ascoltatori sanno, però è vero che hanno puntato forte sul film diverso, tra virgolette, di quest'anno. Bisognerà vedere adesso quanto di quel coraggio si trasferirà in statuette quando sarà il momento di premiare i film. Fra i candidati a una statuetta c'è, possiamo dire, la più grande attrice del cinema americano vivente, forse, che è Meryl Streep. So che le categorie sono sempre difficili, ma insomma penso che sia difficile anche da smentire questa circostanza, per il suo ruolo in un film non bellissimo, francamente. Mi aspettavo di più da questo The Iron Lady, il biopic su Margaret Thatcher, ma certo tenuto in piedi integralmente dalla sua grande prestazione. Assolutamente d'accordo. Devo dire che io non sono uno che ama i compartimenti stagni, che non apprezzi l'eclettismo. Certo che però la regista di Mamma Mia riuscisse a fare un biopic su Margaret Thatcher, i miei dubbi li avevo, ed erano dubbi assolutamente giusti. Il motivo è che a mio parere si sbaglia poi completamente l'ottica di questo biopic, perché si prende la Thatcher già malata che ha le allucinazioni e vede il marito morto, non è una battuta, è proprio questa la trama, e che ripercorre la sua carriera politica e personale attraverso dei flashback. Come dici tu giustamente, forse il motivo per cui non diventa grottesco e pieno di umorismo involontario è proprio la grande prestazione della Streep, che davvero appare come un un mostro, una campionessa, cioè sembra proprio avere un altro passo rispetto a tutte le altre attrici. A lei riescono cose naturali, cose che ad altre costerebbero anni e anni di lavoro. Detto questo, però, il film è bruttino, soprattutto anche perché parla di un personaggio difficile da raccontare, un personaggio granitico, un personaggio che, per intenderci, se vogliamo rapportarlo all'Italia, è un personaggio che aveva l'ego di Berlusconi, le strategie politiche di Monti e la gestione dell'ordine pubblico di Cossiga. Bisognava avere forse 5 film per raccontare la Lady di Ferro e non uno neanche particolarmente bello. Allora, adesso sentiamo una piccola clip di Iron Lady, che è nei cinema italiani, è uno dei film nominati all'Oscar nei cinema italiani già da questo fine settimana, e poi una dichiarazione di Meryl Streep. Le persone non vogliono che una donna faccia loro la predica o una ringa. Persuasione, sì, è quel. O sì, alla fine dell'intervista, esprime autorità, quella è la voce di un leader. Esatto. D'accordo, va benissimo l'idea di cambiare il tono della mia voce, signor Rees. Ma per molti dei miei colleghi, immaginarmi come loro leader sarebbe come immaginare, non lo so, di essere guidati in battaglia dalla loro cameriera. This character is unusual. Questo personaggio è insolito. Quello che non è insolito è il punto di vista da cui il film guarda la sua vita, che è il suo punto di vista. È molto soggettivo. Dopo una vita così lunga, è un guardarsi indietro, ripercorrere una vita passata al potere, da un punto di vista di una donna che non ha più nessun potere. La rosa purpurea. Allora, ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo parlando di nomination agli Oscar e soprattutto dei film nominati che sono già nei cinema italiani. Abbiamo sentito The Iron Lady con la candidatura come migliore attrice a Meryl Streep, adesso parliamo di Moneyball, L'arte di vincere, un film che arriva invece dagli Stati Uniti ed è un film che mette in campo uno degli attori più amati, soprattutto dal pubblico femminile, dobbiamo dire, ovvero Brad Pitt, che si impegna a fondo in questo film firmato in regia da Bennett Miller, perché lo produce, lo coproduce anche. Un film ambientato nel mondo del baseball, che è stato sempre foriero di grandi emozioni, di grandi film, di grande partecipazione per quanto riguarda il cinema americano. Alcuni titoli del passato, da Bull Durham a un film che io amo molto, L'uomo dei sogni. Il baseball è stato metafora, è stato chiave di lettura anche della società americana, e lo è anche in questo caso, anche se con un taglio prettamente economico. Succede che un po' quello che succedeva con Ogni maledetta domenica, ricorderete, nel mondo del football americano, cioè si va dietro le quinte, si va dentro gli spogliatoi, nel quotidiano di una squadra di baseball della Major League, quindi di una squadra di baseball professionistica di Oakland, ma un po' scalcinata, insomma, non proprio una squadra di primissima fattura. C'è una frase che lo dice bene, la sentirete fra poco nella clip. Ebbene, Brad Pitt è Billy Bean, un vero general manager di questa vera squadra di Oakland, che a un certo punto, nel cercare di sostituire giocatori forti con mezze calzette, con pochi soldi di budget, eccetera, si inventò, grazie anche all'apporto di un ragazzino che aveva studiato economia a Yale, ma che applicava le teorie economiche al baseball, si inventò una nuova modalità di gestione legata alla statistica, alla matematica, e che fece davvero portare questa piccola squadra a un soffio Dal sogno, che è quello appunto delle World Series, delle finali del campionato di baseball americano. Non ebbe poi una carriera fulminante, ma le sue teorie diventarono appannaggio di grandi squadre che poi vinsero il campionato grazie al suo modo di operare. Tutto questo viene raccontato in chiave molto umana nel film, fra Brad Pitt e Jonah Hill, che è il ragazzino in questione, nominato anche lui all'Oscar come Brad Pitt, quindi coppia di attori con nomination per questo Moneyball. Ascoltiamo una clip. Ci sono squadre ricche e ci sono squadre povere. Poi ci sono 20 metri di merda. Poi ci siamo noi. Benvenuto a Oakland. Il mio lavoro è portare questa squadra al titolo. Mi servono più soldi. Non sfiderò libri paga da 120 milioni di dollari. Dobbiamo pensare in modo diverso. scopo non deve essere comprare giocatori, lo scopo deve essere comprare vittorie. Ecco 25 giocatori sottovalutati da tutti, un'isola dei giocattoli difettosi. Qui dentro c'è una squadra vincente che ci possiamo permettere. Chi è il ragazzo? Il ragazzo è il nuovo vice GM. Le parole di Brad Pitt e di Jonah Hill nel trailer di Moneyball. Boris Sollazzo, l'America racconta attraverso il baseball qualcosa che va spesso oltre il gioco, e questo è anche il caso. Potremmo dire che questo Moneyball è un film davvero politico, perché cerca di raccontare la svolta di un modo di interpretare la società. No, se vogliamo essere sinceri, addirittura è un film oltre che politico, attuale, perché scegliere 25 giocatori sottovalutati in base alla tecnica umanizzata, però, cioè manipolata da uomini appassionati, perché poi questi due dirigenti sono molto appassionati, tifosi della loro squadra, è forse l'antidoto alla crisi, cioè dove non può arrivare il denaro, i 120 milioni di busta paga, può arrivare un uomo intelligente che sa utilizzare tutte le tecniche per avere successo. Moneyball è il classico film sul baseball americano, nel senso che il baseball diventa qualcosa per raccontare altro. Hai citato l'uomo dei sogni, che non potrebbe essere più diverso, allo stesso tempo però ha sicuramente lo stesso spirito. È un film a cui sono molto affezionato, che mi è piaciuto molto e che ha bisogno di un pubblico secondo me molto attento, perché è proprio interessante l'impostazione, voglio dire, a livello sportivo è come se che ne so, il Napoli del primo scudetto venisse raccontato non attraverso Maradona ma attraverso Italo Allodi, per venire al calcio, che è il nostro sport che più insomma si avvicina come passione al baseball per gli americani. Brad Pitt e Jonah Hill sono bravissimi, riescono a raccontare questi due personaggi, che in teoria sono personaggi da scrivania, come se fossero eroi d'avventura. I dialoghi sono straordinari, soprattutto quelli tra loro due, forse per me darei l'Oscar a entrambi, perché davvero secondo me questo è un film che si poggia molto sulle loro interpretazioni e su una scrittura molto attenta. Sono curioso di vedere come andrà in Italia, perché ovviamente questa passione per il baseball non c'è, e forse la metafora non è immediatamente percepibile, però io lo consiglio perché è un diamante come quello su cui si gioca il baseball. Non c'è la passione per il baseball, ma c'è Brad Pitt che potrebbe fare la differenza. Sentiamo invece Jonah Hill, la sua reazione a caldo dopo aver saputo della notizia della nomination all'Oscar. I don't know it. I think you know they roll it out in a way. Non lo so, io penso che mi siano caduti addosso all'improvviso, perché la prima è stata la nomination per i SAG Award ed è stato un tale shock, e il giorno dopo le nomination ai Golden Globe, che è stato un altro shock, e poi un paio di settimane più tardi il BAFTA, che è stato un altro shock, e poi naturalmente la nomination agli Oscar. Quindi in realtà ti sei abituato a questi folli shock. Sai, alla prima coppia di premi ti dici: non è possibile, ci deve essere uno sbaglio. E poi con il quarto, ovviamente il più importante, sei ancora sotto shock, ma ti sei un po' abituato, perché ce ne sono stati altri tre prima di lui. Insomma, un Jonah Hill scioccato da questa notizia. Grazie a Boris Sollazzo per averci raccontato e averci aiutato nel racconto dei film nominati agli Oscar di oggi. Grazie a te Franco, un ciao sentito a tutti gli ascoltatori. Allora, questo era Moneyball, l'arte di vincere. A questo punto noi siamo al DVD Game, dobbiamo aprire la prima finestra sul nostro gioco che vi permette ogni settimana di vincere film quasi sempre ormai in alta definizione Blu-ray, e anche questa settimana giochiamo con il Blu-ray, con un film misterioso di cui vi proponiamo come sempre tre tracce e voi dovete indovinare di che film si tratta. Vediamo se siete in grado di farlo da subito con questa traccia. Ti allenerai con i coach del college. Ti piacerà, ne sono certo. Pensavo che sarei stato libero quest'estate. Ora le cose sono cambiate per lui. Se avete già capito di che film si tratta, diteci il titolo, inserite come sempre il vostro indirizzo di posta di modo da accelerare le operazioni di spedizione. Fate tutto questo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi vi daremo altre due tracce misteriose. Parliamo adesso di un'altra proposta cinematografica che arriva da una scuola cinematografica di grandissima storia, di grandissimo prestigio, come quella della ex Jugoslavia. Stavolta a firmare il film, tra l'altro, c'è una giovane regista. Stiamo parlando di Il Sentiero, un film molto molto interessante che arriva nelle sale cinematografiche italiane e che racconta un po' quello che è oggi uno spaccato di quello che è oggi la società della Bosnia, ormai 20 anni dopo la guerra che dilaniò la ex Jugoslavia, e dove forse le ferite della guerra sì sono state superate, ma si sono aperte quelle dell'identità culturale, di un'identità culturale che fu proprio al centro, tra l'altro, di quella guerra sanguinosa. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo. Agic, stanza 216. I risultati non sono buoni. C'è una ridotta motilità degli spermatozoi. Se vuole avere qualche possibilità, dovrà rinunciare all'alcol e alle sigarette. Beviamo una cosa. Siete fatti l'uno per l'altra. Scusate, è colpa mia, non ho guardato. Davvero non mi riconosci? Sono Bahria. Luna, piacere. Perdonami. Non do la mano alle donne. E allora, questo incidente che chiude la clip che vi abbiamo fatto ascoltare è un incidente svolta per la vita di Amar. Amar e Luna sono i protagonisti di questo film ambientato nella Sarajevo di oggi. Luna è una bellissima ragazza, fa la hostess, il suo compagno Amar è un controllore di volo dell'aeroporto, però un po' troppo dedito all'alcol, e quando fa il controllore di volo non è che sia il massimo, per cui viene sospeso dal servizio. Comincia una sua crisi che tra l'altro viene acuita, avete sentito all'inizio della clip, dalla scoperta di avere problemi di fertilità, quindi questi due giovani non possono, almeno al momento, avere figli. Jasmila Zbanic, regista del film, fa continuare la vita di Luna, in un certo senso abbarbicata, attaccata al suo lavoro di hostess, e anche la voglia di vivere in maniera moderna, diciamo così, in maniera ampia, la propria gioventù. Dall'altra parte Amar si chiude sempre di più in se stesso dopo questi problemi. Cosa succede? Che mentre stanno andando ad una gita, avete sentito, incidente, Amar ritrova un vecchio amico che nel frattempo, invece, dopo la guerra, si è diciamo, più che convertito, si è dedicato all'Islam praticato in maniera rigorosa e integralista. Amar troverà in questo amico le fonti per vivere la sua vita in maniera piena e per cercare di uscire dai problemi personali. Certo che questo acuirà i problemi sentimentali, i problemi di coppia, perché avremo una divaricazione a quel punto con Luna, che sempre di più vuole vivere, diciamo così, tanto per usare degli schemi, all'occidentale, e Amar che invece si tuffa nell'Islam fino appunto a sposarne le regole più rigorose, più assolute, più integrali, più estreme. E chiaramente la disgregazione di una coppia, quella che vuole raccontare Jasmila Zbanic, ma è anche il problema di una società che oggi fa fatica, e questo è un po' la grande partita che si sta giocando nei Balcani e anche da lì a sud, dalla Turchia poi al mondo arabo, cioè quella fra la modernità, l'Occidente, con tutte le sue storture, con tutti i suoi problemi, e dall'altra parte la scelta di un Islam, e di quale livello, di quale grado di islamizzazione scegliere. Questa dicotomia, questa problematica sicuramente impegna appieno un paese musulmano come con una grossa componente musulmana, diciamo, come la Bosnia. Il film è molto interessante sotto il profilo stilistico. Ricordiamo che Jasmila Zbanic ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con il film precedente Il segreto di Esma, e quindi insomma universo femminile raccontato pienamente, e poi tutte le dinamiche di relazione uomo-donna che con coraggio Jasmila fa propendere e soprattutto fa portare a compimento dalla figura femminile. Il sentiero di cui si parla nel titolo è appunto questo impervio sentiero che i due affrontano ma non si sa dove porterà, e questo è un po' l'interrogativo chiave che aleggia su tutto il film. Un film molto, molto bello anche sotto il profilo della godibilità, un film che si segue con grande passione, perché ci si appassiona proprio alla vicenda umana di questi due personaggi. Ricordiamo ancora Il sentiero di Jasmila Zbanić nei cinema italiani da questo fine settimana. La rosa purpurea. È questo quello che succede la domenica allo stadio. E questo quello che succede la domenica allo stadio. La voce di Pierfrancesco Favino ci introduce nel film di cui vogliamo parlarvi ora, ovvero ACAB, All Cops Are Bastard. Questo è l'acronimo che sta dietro questa sigla, che è il titolo di un libro di Carlo Bonini, diventato il titolo del film tratto dal medesimo libro, diretto da Stefano Sollima, uno che, come dire, la mano con il genere ce l'ha un po', perché è figlio di cotanto padre, il papà di Sandokan, per intenderci, e un po' perché con la sua capacità anche di portarci anche dal piccolo schermo dentro il mondo di romanzo criminale ha sicuramente, come dire, guadagnato il genere in tutto e per tutto. Il genere lo mette anche dentro questo film, che racconta le storie di ordinaria follia, potremmo dire, di un manipolo, di una squadra di celerini, di poliziotti del reparto celere, molto molto uniti tra di loro e anche molto divisi, potremmo dire, dal resto del mondo, da una sorta di filtro di solitudine un po' indotta, un po' forse anche autoalimentata. La storia, appunto, segue questo gruppo nel cast: Pierfrancesco Favino, che avete sentito, ma poi Filippo Nigro, Marco Giallini, straordinario sergente di questa pattuglia, Andrea Sartoretti, appunto si mettono all'opera prima, appunto, nel servizio d'ordine degli stadi, oppure di fronte ai manifestanti a un porto, insomma, sgomberi di case abusivamente occupate, ordinaria, davvero quotidiana amministrazione di un reparto celere. Ognuno però con le sue storie, ognuno con i suoi problemi, ognuno con una vita che sicuramente non sorride, con un mestiere durissimo che certo non giustifica gli eccessi a cui questa pattuglia, questa squadra va incontro e anzi sembra alimentare volontariamente, ma che certo non aiuta. Uno stipendio appena sopra la linea di galleggiamento, un mondo esterno che sostanzialmente, sembra dire il film, non vede l'ora di sputarti in faccia anche fisicamente, o di colpirti, o di accoltellarti, o di picchiarti per portarti via il manganello come se fosse lo scalpo dei Sioux. Insomma, una vita così tutti i giorni non è sicuramente facile da affrontare. Questa squadra nel film è una squadra che l'affronta in maniera esagerata e a un certo punto comincia a scambiare il senso della legalità con una giustizia fatta da sé. A questo punto sentiamo un'altra clip dal film, proprio nel momento in cui sempre Pierfrancesco Favino in tribunale spiega quali sono gli stati d'animo che vive un poliziotto di quel reparto nei momenti più caldi, per esempio di una domenica allo stadio. E a quel punto ti trovi in mezzo a una battaglia e l'unica cosa che pensi dentro di te è come tornare vivo a casa. Ma c'è un modo solo per farlo, però: rimanere lucido. Ma in quei momenti c'hai il cuore che ti batte forte, l'adrenalina che sale a mille, la testa che ti rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro al casco, non senti niente. C'hai solo i tuoi fratelli accanto. Solo su quei fratelli puoi contare. Avete sentito questo senso proprio del gruppo, quasi del branco, potremmo dire, che si trasferisce in questo reparto. Non è stato un film facile, dicevamo, ne parlavamo con Stefano Solli, ma fra poco sentiremo anche Pierfrancesco Favino nell'intervista che ha rilasciato esclusivamente alla Rosa Purpurea. Non è stato un film facile perché chiaramente ci si è dovuti anche cimentare con il rischio sempre latente che l'immagine generale poi di tutta la polizia diventasse quella. Però è stato molto bravo Solly, ma molto bravo appunto a girarla con i canoni del genere, quindi a farne un film tout court, senza implicazioni politiche, anzi con un certo distacco dalla situazione. Si seguono delle persone con le loro debolezze più che parlare politicamente con la P maiuscola del senso generale della cosa. E poi all'interno dei personaggi analizzati c'è chi fa scelte dirompenti, il nuovo arrivato è un po' la spina, la recluta che all'inizio non trova posto neanche nell'autoblindo, sarà proprio l'anima pura, sicuramente arrabbiata ma comunque non disposta a trasgredire, non disposta soprattutto ad entrare nell'illegalità per farsi giustizia da sé. Sarà questa recluta a tirare via il tappo dall'omertà di questo discorso. A questo punto noi ci prendiamo una piccola pausa, apriamo una piccola finestra nel racconto di Acab, perché fra poco sentiamo l'intervista. Prima però voglio giocare, perché siamo arrivati alla seconda traccia del DVD Game di oggi. Sentiamo. Attento, c'è stata una fuga di gas, non so quanto carburante io abbia perso. Non mi sembra che faccia molte domande. Gli dia un po' di tempo, signor Blake. È solo un vice, non è lo sceriffo. Non importa. La Rosa Purpura, @radio24.it, diteci di che film si tratta. Come sempre vi esorto a inserire anche il vostro indirizzo, che sicuramente dà una certa scossa alle spedizioni poi dei film per chi ha vinto, e quindi potrete provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Torniamo ad Acab, torniamo al film di Sollima nelle sale italiane. Stefano Sollima con Francesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti. Favino e l'intervista per parlare appunto di Acab e per parlare della lavorazione di questo film. Sentiamo. I personaggi di questo film non sono esattamente quelli raccomandabili sotto alcuni aspetti. Può stupire sapere che in realtà tutto quanto è raccontato è assolutamente vero, e che credo che una delle ragioni di sensazione che ti dà il film sia riconoscere la realtà di questo. Sollima si prende la briga di voler raccontare questo aspetto, ed è un aspetto che per l'esperienza personale che abbiamo fatto, oltre che appunto per il romanzo di Carlo Bonini, sappiamo essere vero. Però sceglie di farlo utilizzando il punto di vista di questi uomini, mai utilizzato in questo modo nel cinema, per raccontare qualcosa di più ampio, per raccontare quanto odio, quanta frustrazione, quanta repressione anche emotiva c'è, non solo in questi uomini, ma in tutti quelli che circondano questo momento storico, non solo nelle periferie, non solo a Roma. E anche quanto senso di solitudine, cioè questi uomini si fanno forza l'uno con l'altro, a volte in maniera anche bestiale, ma perché spesso sono lasciati soli. Io credo che buona parte di questo isolamento nasca dal fatto che comunque noi stessi pensiamo che a compiere queste azioni, oppure a essere coinvolti da quest'odio, siano solo alcune persone, alcune frange della società. Per cui c'è anche guardare in televisione queste persone che si scannano, ogni sacrosanta domenica si incontrano, si scontrano, in qualche modo credo che ci serva ad assolverci noi che siamo a casa, cioè noi quella stessa rabbia non espressa in quel modo ce l'abbiamo, fa parte della nostra quotidianità, fa parte di quello che decide di scendere dalla macchina perché gli hai suonato per chiedergli se c'era parcheggio e scende con la voglia di menarti, indipendentemente da tu chi sia, dalla tua età, dalle manifestazioni di intolleranza mostruosa che noi vediamo sempre più crescente, che probabilmente oggi viene documentata più di quanto non fosse in passato, ma che c'è, da questa compressione costante di questa società. Ecco, vederla rappresentata lì, secondo me un pochino a noi ci fa stare un pochino più tranquilli, ma uscendo da questo film c'è un silenzio che ti accompagna, almeno a me è successo così. Senti, anche un film, dicevate prima, che vi è costato molto in termini fisici. Sì, abbiamo affrontato una preparazione particolare, ma in più è una fortuna, almeno io penso così, per noi attori, sai, mettersi veramente nei panni di queste persone. Allora tu puoi incontrare un celerino che ti dice, sai, stare con la testa dentro al casco, in quelle cose ti rimbombano, con le bombe carta, avere addosso una sola divisa per tutte le stagioni, che faccia freddo o faccia caldo, dover mangiare un panino e una bottiglietta d'acqua per 8 ore, stando magari chiusi dentro a un pulmino quando fanno fuori 35 gradi e poi improvvisamente essere chiamati magari alla fine di queste 8 ore a dover fare un'azione allo stadio, ecco, se hai l'esperienza fisica addosso capisci meglio e di più che cosa vuol dire. Se la pensi e provi ad immaginarla, ha un altro significato per te. E noi l'abbiamo fatto solo in simulazione, nonostante qualche volta qualche botta l'abbiamo presa davvero, ce la siamo data veramente, qualche piccolo incidente ci sia stato. Senti, un'ultima cosa, com'è cambiato il tuo sguardo? Se è cambiato, ovviamente, quando esci per strada e vedi un poliziotto o un celerino? Guarda, io avevo, credo, il pregiudizio che abbiamo tutti quanti noi. Mi sembra di poter dire che noi italiani abbiamo nei confronti delle armi costituite l'idea di quelli che ti devono fare rispettare quelle regole che per una malformazione noi crediamo debbano essere rispettate solo da quello che non siamo noi, cioè gli altri devono seguire le regole e noi possiamo fare un po' come ci pare. Questo non giustifica però la decisione di un gruppo di persone di avere la propria legalità. Il senso d'abbandono di queste persone viene da tanti aspetti, non ultimo anche ideologicamente dall'idea che pochi ma buoni e con tanto onore, ci sono affiliazioni ovvie e fascio marxiste dietro questa cosa, ci sono veramente lì delle malformazioni strane, vedi persone che hanno passioni per personaggi all'opposto e una condivisione in un sottobosco di una strana idea di ciò che significhi appartenere a qualcosa piuttosto che non alla legalità. In questo senso il mio sguardo è cambiato enormemente, si è molto ampliato. Mentre noi stavamo preparando il film, io ho visto quante teste rasate girano per l'Italia, quanti tatuaggi nascosti di fazioni estremiste tu puoi trovare sotto le persone più insospettabili, da quello a cui vai a comprare il giornale, fino a quello che ti firma il bonifico in banca. Ecco, c'è una cultura popolare destrorsa, che non vuol dire fascista, che non vuol dire di destra, ma c'è un'idea del rigore che tutte le volte viene declinata in una maniera diversa a seconda dell'individuo, neanche del gruppo, è molto più di quanto noi immaginiamo, veramente molto di più. Grazie a te. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma, è il momento di dare un'occhiata ai palinsesti televisivi della prossima settimana per vedere se c'è qualche film da recuperare, da videoregistrare o da vedere magari per la prima volta sul piccolo schermo. Lo facciamo come sempre con gli amici di Film TV e in collegamento con noi dalla redazione del settimanale di Cinema e Televisione, Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Allora Giulio, questa settimana cominciamo con un film che è uno dei punti di riferimento non solo per l'epoca, per il genere, per il regista, ma proprio quel film di Quentin Tarantino. Stiamo parlando di Quel maledetto treno blindato di Enzo Castellani. Esattamente, Quel maledetto treno blindato, lunedì alle 10:40 su Rai Movie, 1944, Ardenne. 5 soldati americani in prigione per diversi motivi, riescono a fuggire, uccidono quelli che credevano tedeschi, ma sono in realtà spie statunitensi, così prendono il loro posto, si affiancano ai partigiani francesi e sabotano un treno che trasporta testate nucleari tedesche. Un B-movie caotico e goliardico, sfacciato nel suo fare a meno della verosimiglianza e spettacolare nei limiti del low budget, uno dei film preferiti di Quentin Tarantino, fonte di ispirazione per il suo Bastardi senza gloria. E appunto, come dicevamo, Tarantino c'entrava molto, allora ricordiamo l'appuntamento lunedì 30 gennaio su Rai Movie alle 10:40 del mattino, Quel maledetto treno blindato di Enzo Castellani. E invece la seconda segnalazione, Giulio, riguarda un grande film piuttosto recente, perché arriva per la prima volta in TV in chiaro, diciamo così, sui canali tradizionali, niente meno che Milk di Gus Van Sant. Esatto. esattamente Milk, venerdì alle 21.05 su Rai 3, un'opera biografica incentrata sugli ultimi 8 anni di Harvey Milk, portavoce della comunità gay di San Francisco, morto per mano dell'eterno avversario Dan White. Gus Van Sant, tra i registi più eccentrici ed esaltanti del cinema contemporaneo, gira un'opera biografica di stampo tradizionale che sostituisce al lavoro sul linguaggio cinematografico l'interesse per la diffusione presso il pubblico più vasto possibile di quella che è una storia emblematica e che vuole rendere comprensibile a tutti nei suoi contenuti. Sean Penn, in una delle sue migliori interpretazioni, e sceneggiatura dell'autore dello script di J. Edgar. E allora ricordiamo l'appuntamento con Milk di Gus Van Sant, venerdì 3 febbraio alle 21.05. Questo è l'appuntamento. A questo punto un saluto e a risentirci fra 7 giorni agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e un saluto ai radioascoltatori, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, dopo le segnalazioni di Film TV, è arrivato di nuovo il momento per giocare insieme con il nostro DVD Game. Ancora oggi giochiamo in alta definizione Blu-ray, sentiamo la terza traccia del film misterioso. Che problema hai? Il mio film è un disastro per colpa tua. So che mio padre è stato un idiota. Lascia perdere. Dobbiamo finirlo il tuo film. Non è più il mio film ormai. Che stai dicendo? Certo che è tuo. Lascia stare. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Andiamo a svelare il quiz della scorsa settimana. È stato un successo clamoroso di partecipazione, ma succede molto spesso con i film Disney. Sentiamo la traccia. E non spaventi quella povera ragazza. La colpisca col suo spirito arguto. Ma sia gentile. La ricopra di complimenti. Ma sia sincero. E soprattutto si ricordi. Cerchi di controllare il suo umore. Oh, eccola che arriva. Era La Bella e la Bestia, l'avete indovinato in tantissimi, avete giocato ancora di più, ma i più bravi, i più veloci del sabato e della domenica sono stati Roberto Pattaro o Pattaro di Treviso e Virginia Volpi di Livorno. Saranno loro a ricevere a casa la versione Blu-ray 3D, tra l'altro, della Bella e la Bestia Disney, di cui parliamo adesso con il nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, saluto i nostri amici in ascolto. Eh sì, questa edizione ad alta definizione da parte di Disney Home Video, della Bella e la Bestia, è veramente definitiva. In un'unica confezione ci sono il Blu-ray in 3D, che sarà una lieta sorpresa quanto a qualità e profondità d'immagine, almeno quanto lo è stato il Re Leone, è inclusa anche la versione bidimensionale. Tra l'altro La Bella e la Bestia è l'opera per cui sono state prodotte per l'home video più versioni in assoluto e sono qui tutte presenti. C'è l'originale di 84 minuti, quella per le sale di 85, la extended di 95 minuti con incluso il commento di alcuni dei creatori, la versione storyboard. Sono tantissimi approfondimenti sulla produzione e la creazione di questo colossal, tra cui segnaliamo su tutti sicuramente questo incredibile documentario di 157 minuti, 28 minuti di scene tagliate e 20 minuti per la colonna sonora. Insomma, davvero The Ultimate Edition, potremmo dire, per gli amanti di questo cartoon, di questo musical animato, che è stato, fu già all'epoca tecnicamente uno dei punti di svolta della produzione Disney, anche se ancora si lavorava in bidimensionale, ma il computer ebbe nella Bella e la Bestia, nella realizzazione, già uno spazio importantissimo. E adesso anche nel non video, come vedete, proprio questo titolo casa Disney aggancia momenti di svolta importanti. Andiamo a vedere, a sentire, anzi, visto che siamo in radio, un altro paio di film che arrivano nelle videoteche. Cominciamo con A Hero Never Dies. Leo Cavo e Leo Knight. Lo scorso anno ti disse molto chiaramente che sarebbero morte tante persone in battaglie sanguinose. Era tuo compito impedire che gli scontri continuassero. Oracolo, ho già fatto quello che potevo. Jack e Martin sono killer professionisti, lavorano per boss rivali, un destino che li ha messi l'uno contro l'altro, ma non ha impedito di fare la conoscenza, in qualche modo di diventare amici. Dopo un terribile scontro a fuoco tra le due bande, i due assassini rimangono feriti gravemente, uno addirittura perde le gambe. I due capi della malavita stringeranno in seguito un'alleanza, decidendo di sbarazzarsi dei sicari, ma eliminarli si rivelerà veramente un'impresa suicida. Noir cinese, in cui c'è tutta l'epica dei film di John Woo, ma anche di Sam Peckinpah, tra luci, neon, pistole e lacrime, un film contaminato dal miglior cinema americano di genere. A Hero Never Dies è una forse delle opere più ambiziose e pirotecniche del maestro cinese Johnny To. da CG un video, un DVD di sufficiente resa, tratti appesantito dalla compressione, tracce Dolby Digital stereo o multicanale sia in italiano che in lingua originale cantonese. Tra gli extra, un'interessante intervista all'ex direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Marco Müller, e il making of del film. E questo per quanto riguarda Hero Never Dies. Spazio invece adesso una commedia che può mettere insieme davanti al piccolo schermo tutta la famiglia, Il Signore dello Zoo. Sta impazzendo, guarda, guarda! Siamo tutti in cerchio a fissarlo, cosa pensi che guardi? Voi parlate! Certo che parliamo, io canto niente male! E io ti posso insegnare a fare la doccia col naso? Come siete usciti dai recinti? Meglio che tu non lo sappia, Griffin. Io direi di sì. Ok, va bene, ma io non voglio dirtelo. Da quanto sapete parlare? Vediamo, oggi è martedì, no? Quindi, da sempre... Uscito da una cocente delusione d'amore, Griffin si immerge più che può nel lavoro di guardiano dello zoo di Boston in mezzo agli animali che ama tanto, i quali sono talmente riconoscenti da decidere di rivolgergli la parola. L'idea degli ospiti dello zoo sarebbe quella di aiutarlo a riconquistare la ex per evitare che Griffin lasci il posto per un lavoro più remunerativo, l'unica via che il guardiano vede per ritrovare l'amata. Commedia con qualche momento brillante, questo Signore dello Zoo pone l'accento sulla differenza tra saper comunicare e parlare. La Sony Pictures Home Entertainment, un Blu-ray di eccellente resa video, non è da meno l'audio con efficace tracce DTS ad alta risoluzione, tra gli extra alcuni focus sulla lavorazione, gli effetti speciali digitali, ma attenzione che presenta anche una demo giocabile per il Blu-ray di un platform game per PlayStation 3. Ebbene, grazie allora a Claudio Poffi per le segnalazioni in un video, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora sentite già le note della nostra base che ci dicono che siamo arrivati alla fine della corsa della Rosa Purpura di questo weekend. La prossima settimana ancora tanta qualità cinematografica, ormai è il momento in cui l'alta stagione qualitativa prende il posto di quella quantitativa. Arriveranno in sala i Muppet, mitici Muppet, Escher è stato qui, film rivelazione, ma soprattutto Hugo Cabret, l'esperimento in 3D firmato dal maestro Martin Scorsese. Noi ci saremo a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Peter Bescapè in regia. Un saluto da Franco D'Assisi.